in primo piano. Giovedì 3 marzo, le aperture sono davvero diverse oggi, anche se la situazione in Libia è una delle aperture più gettonate. Il Sole 24 Ore apre sul forum che c'è stato faccia a faccia tra Billemot e Marco Fortis, sul Made in Italy, genio e vincoli, e sulla competitività delle imprese. Mentre appunto la scelta libica, Gheddafi, mi riprenderò la Libia, così apre Repubblica. Gheddafi torna all'attacco per la stampa. Anche l'unità, i pizzini del Rais, Gheddafi minaccia, se la NATO ci attacca i morti saranno migliaia. Anche per il manifesto, controffensiva, e tra l'altro c'è la foto di Gheddafi ricevuto da Berlusconi quando scese dall'aereo agghindato, sembrava Michael Jackson, nel giugno del 2009. E il Corriere della Sera, Villaggio Italia per 50.000. È la missione umanitaria in Tunisia che sta per partire, anzi è già partita, e poi lo show di Gheddafi, vi ho costretto a baciarmi la mano. E per quel che riguarda invece la politica interna, Libero torna a scrivere Vittorio Feltri oggi dopo i 3 mesi di sospensione dall'Ordine dei Giornalisti. Gli errori di Silvio, questo è il suo primo editoriale che vedremo, mentre Berlusconi e Lega ci sono per il giornale, questa è l'apertura dedicata al federalismo. Il Fatto Quotidiano apre sul tema del nostro sondaggio, la grande idiozia è il titolo, la direttiva PDL sulla demenziale idea dei conduttori alternati trova udienza in vigilanza, possibile che su ogni attentato all'informazione si imponga un compromesso, così titola il Fatto Quotidiano. Da cosa voglio partire? Da 2 segnalazioni. La prima farà piacere al nostro Peter Bescapè in regia, al nostro alpino, perché c'è una proposta di legge che riguarda gli alpini, l'ho trovata a pagina 2. Fermiamoci con la soddisfazione, perché poi la proposta di legge fa molto discutere, l'ha portata avanti il leghista Davide Caparini, primo firmatario. I padani in trincea per gli alpini, una legge sulle origini dei soldati. Ebbene sì, in principio fu Borghezio, scrive Paola Setti sul giornale, dicendo: faccio appello ai giovani padani perché si arruolino nel glorioso corpo alpino. Ora c'è una proposta di legge simile, primo firmatario il deputato della Lega Davide Caparini, verso il quale sono volate parole razzista, anche in questo caso, perché nella relazione allegata al testo di disegno di legge che invita ad arruolarsi nel corpo degli alpini, il Carroccio lamenta la riduzione drastica delle popolazioni del nord tra gli arruolati, e il che snatura l'identità dei reparti, spezza i secolari legami con il retroterra sociale di cui sono tradizionalmente espressione. Insomma, scrive il giornale, si vogliono incrementare le fila del corpo più amato dai leghisti e al contempo arginare l'invasione dell'orda terronica. E dunque arruolarsi negli alpini, ma soprattutto nella proposta di legge la gente che viene da fuori, si è trasformata in aliquota, come quella delle tasse, insomma, arginare, ridurre l'aliquota crescente di volontari provenienti dalle regioni del sud, perché snaturerebbe il corpo degli alpini. Questa proposta di legge che da una parte vuole incrementare il numero di alpini, dall'altra è accusata di razzismo. La seconda segnalazione da cui voglio partire è la prima pagina del quotidiano Italia Oggi, che mette in prima pagina questa notizia: danno da burocrazia, il Consiglio di Stato riconosce il danno biologico a un imprenditore ammalatosi per lo stress causato dai ritardi del permesso a costruire. A pagina 28, il danno biologico per un costruttore che per colpa delle pastoie burocratiche del comune si è ammalato, ha fatto ricorso, ha ottenuto 11.000 euro di danno biologico, perché ci ha messo tanto per avere tutte le autorizzazioni della burocrazia. Nel frattempo, questo ritardo gli ha comportato uno stato da sindrome d'ansia somatizzata con disturbi dermatologici, e la pubblica amministrazione, l'ente comunale, deve risarcirlo con 11.000 euro per danno biologico. Danno biologico per il costruttore, questo a pagina 28 del quotidiano Italia Oggi. Come dire, trema l'amministrazione di tutta Italia, perché se si dovesse pagare il danno biologico riconosciuto per le pastoie della burocrazia, sì, ciao. Come detto, molti giornali puntano ancora sulla situazione libica e l'apertura è questa, anche perché ieri Gheddafi è riapparso in TV, ha fatto un discorso, come definirlo, un altro discorso fiume, nel quale ci sono stati anche degli attacchi all'Italia, ho costretto l'Italia a scusarsi, vogliono occuparci per il petrolio, se ci attaccano faremo migliaia di morti. Ho obbligato l'Italia a il presidente Berlusconi a farmi baciare la mano, l'intero mondo mi ha insultato perché l'Italia mi ha baciato la mano, è stato uno storico successo, gli italiani ora ci pagheranno per 20 anni 4 miliardi l'anno di risarcimenti. Insomma, un Gheddafi per nulla remissivo, un Gheddafi che controbatte la controffensiva, infatti anche su Repubblica l'ultima minaccia del Rais al mondo, migliaia di morti se la NATO interviene, l'Unità mette in primo piano proprio questo attacco di Gheddafi, attacca l'amico Silvio, l'Italia ci ha baciato la mano, tra l'altro Sergio Romano in prima pagina del Corriere della Sera nel suo editoriale quelle parole sul nostro paese e si concentra proprio su questo. Scrive Romano, le parole pronunciate da Gheddafi sull'Italia possono sorprendere il presidente del Consiglio, probabilmente convinto di aver stretto col colonnello libico un rapporto infrangibile fondato sulla reciproca ammirazione, sugli interessi comuni. Non possono sorprendere però chiunque abbia familiarità col trattamento che Gheddafi ha riservato all'Italia sin dal giorno in cui conquistò il potere a Tripoli nel 69. E poi conclude più avanti Sergio Romano, ho sempre pensato che l'Italia avesse un interesse non solo economico a seppellire il passato. Tutti i maggiori paesi coloniali hanno sacrificato un po' del loro orgoglio, riconosciuto le loro colpe. L'Italia e la Libia vivono nello stesso mare, hanno economie complementari, la conflittualità permanente non può giovare né all'una né all'altra. L'accordo con la Libia è stato voluto da tutti i governi italiani, ma sarebbe stato preferibile raggiungere l'obiettivo con lo stile di Andreotti, tanto per fare un esempio, piuttosto che con quello di Berlusconi. Dopo l'ultimo discorso di Gheddafi, il ricordo del suo trionfale viaggio a Roma diventa insopportabilmente penoso. E, tra l'altro, a fianco alla questione degli attacchi del leader della Libia c'è la vicenda umanitaria, il campo di transito per chi fugge dalla Libia. A pagina 3 del Corriere Fiorenza Sarzanini racconta di come l'Italia stia approntando un campo di transito per ospitare fino a 70.000 persone, la missione umanitaria affidata a una persona di grande esperienza, Elisabetta Belloni, capo della cooperazione della Farnesina, è stata anche responsabile dell'unità di crisi della Farnesina al tempo delle guerre in Iraq e in Afghanistan, ha gestito l'emergenza tsunami e ora gestirà questo campo che nell'ottica italiana deve essere allestito in loco, insomma, al confine tra Libia e Tunisia per impedire, evitare che le persone poi partano verso l'Italia, verso le coste, soprattutto della Sicilia e di Lampedusa. Per quel che riguarda invece, se ci spostiamo al di qua del Mediterraneo e veniamo alle cose italiane, beh, il tema politico del giorno sicuramente è stato l'approvazione del via libera al federalismo municipale con la fiducia sofferta con 314 sì, leggo il titolo di pagina 4 del Sole 24 Ore. Eugenio Bruno racconta, dopo 113 giorni di repliche ininterrotte, la pièce sul fisco municipale esce dal cartellone dei lavori parlamentari, si avvia Palazzo Chigi. C'è stato dunque il sì, ora ci vorrà l'approvazione, probabilmente oggi stesso, stamattina in Consiglio dei Ministri, quella definitiva. Quali sono i pilastri del fisco municipale, li ricorda il Sole 24 Ore? Beh, una tassazione rivoluzionata sulla casa, col decreto che rivoluziona l'imposizione immobiliare, da quest'anno già arriva la cedolare secca sugli affitti, la compartecipazione all'IVA sui consumi, invece che 11 miliardi di trasferimenti erariali, i sindaci si vedranno recapitare un mix di tributi propri, soprattutto le compartecipazioni, prima proprio quella l'IVA sui consumi. L'addizionale IRPEF che i comuni hanno strappato, la possibilità di manovrarla da subito, per chi non ha ancora superato lo 0,4% potrà essere alzata al massimo dello 0,2% l'anno. E poi c'è la tassa di soggiorno, la partecipazione alla lotta antievasioni per incentivare i comuni a partecipare alla lotta antievasione. Il provvedimento aumenta fino al 50% la quota sui tributi statali recuperati sul territorio. Insomma, il federalismo municipale con l'opposizione che attacca è un guscio vuoto, dice Bersani, state facendo in fretta per mettere la bandierina che vuole tanto la Lega. sta di fatto che questo è l'aspetto politico che si ha, che si è avuto in Parlamento, ma c'è qualche malumore, qualche mal di pancia invece che cova un po' sotterraneo nei cosiddetti retroscena, nell'articolo della politica. Il primo è quello del rimpasto, il rimpasto di governo che forse approderà oggi in Consiglio dei Ministri, più probabilmente invece slitterà. Uno dei temi interessanti, per esempio, di questo rimpasto è sempre il nodo del Ministero dell'Agricoltura. Perché ci vuole questo rimpasto? Beh, perché insomma vanno premiati anche questi responsabili, vanno premiate alcune persone. Ci sono state delle dimissioni di sottosegretari, ci sono delle poltrone vuote, ci sono anche politicamente qualcuno a cui dare riconoscenza probabilmente dopo che ha appoggiato il governo nei voti di fiducia. Cambio all'agricoltura, l'alt della Lega. Questo è il retroscena di Carmelo Lo Papa su Repubblica. Non può andare a un ministro del Sud. Ecco i veti incrociati. In questo caso il veto sarebbe su Saverio Romano, al quale Berlusconi avrebbe giurato: tu sei ministro dell'agricoltura, stai sereno, con Umberto ci parlo io, devi solo pazientare. Questo Berlusconi avrebbe detto al fedele Saverio Romano, però il veto di Bossi è proprio questo, tanto che Bossi ieri in serata ha detto: vedo bene all'agricoltura Bricolo, che è il capogruppo al Senato della Lega, ha una bella faccia da agricoltore. Insomma, con la sua solita ironia Umberto Bossi ha sparigliato un po' le carte in tavola. Per esempio quello dell'agricoltura è un posto sicuramente che fa discutere. Poi c'è quello che il Fatto Quotidiano definisce lo psicodramma di Sandro Bondi. Psicodramma infinito. Ieri ancora il giornale con una lettera ha annunciato: mi dimetto. Oggi fa un'intervista a Repubblica e conferma: ho già dato le dimissioni, le ho consegnate personalmente nelle mani di Silvio Berlusconi. Deciderà lui quando sostituirmi, ma è una questione di giorni. Cioè c'è un Sandro Bondi che vuole dimettersi perché dice la campagna di stampa, l'odio personale, una violenta campagna di stampa contro di me, contro la mia famiglia, la vicenda di Pompei, quello che è accaduto dopo il crollo di un muro in cemento armato è un caso da manuale della micidiale influenza negativa che può svolgere l'informazione, accusa Sandro Bondi oggi a pagina 16 di Repubblica in questa intervista. È impossibile difendersi da questa violenta miscela propagandistica. Un Bondi che da mesi pare non si presenti più neanche al Ministero della Cultura. È da tempo che ho annunciato le dimissioni, ma nonostante ciò ho assolto i miei doveri da ministro, seguendo per ultima tutta la fase del provvedimento contenuto nel mille proroghe. Si difende così, però dice: voglio dimettermi. E paradossalmente tutti gli altri colleghi di partito, di maggioranza, dicono: no, no, devi rimanere, devi rimanere. E per cui si assiste a questa paradossale, quello che il Fatto definisce psicodramma, di Bondi che vuole dimettersi dal ministro dell'agricoltura, della cultura, ma lo vogliono trattenere. Non si sa, forse quando ci sarà questo rimpasto di governo verrà accontentato. L'altra parte, l'altro aspetto che sicuramente sotto traccia fa discutere, sul quale fervono le attese, i preparativi, è quello della vicenda giudiziaria del Premier. Sapete che ieri è stata sollevata in capo a Fini, presidente della Camera, la decisione se sollevare il conflitto di attribuzioni come giudice che dovrà giudicare Berlusconi alla Corte Costituzionale. La maggioranza dice: non deve essere la Procura di Milano, il Tribunale di Milano a giudicare Berlusconi, ma il Tribunale dei Ministri. E ora Fini dovrà decidere. Fini, che è un po' sulla graticola, scrive Repubblica, insomma, perché ovviamente è atteso da questa decisione. Ma la novità sulla vicenda giudiziaria del Premier è data da Corriere, Giornale e anche il Secolo XIX. La novità è questa: Berlusconi in questi giorni dice a chiunque gli affronti la questione con lui in privato: ho le prove, la ragazza, cioè Ruby, non era minorenne. Beh, questa sarebbe una novità clamorosa: la ragazza non era minorenne. Questo sul Corriere. Eccolo qui anche sul Giornale: il Premier cala l'asso, Ruby era maggiorenne. Abbiamo la prova che Karima è stata registrata all'anagrafe marocchina 2 anni dopo la nascita e la presenteremo ai giudici. Eccolo qui, Berlusconi: abbiamo le prove che non era minorenne. Anche sul Corriere, Marco Galluzzo: Berlusconi ormai parla di Ruby con molte persone, lo fa con toni confidenziali, appuntamenti privati, lo fa in pubblico. È stata registrata all'anagrafe 2 anni dopo essere nata. Sarebbe stato scoperto con una missione anche segreta in Marocco. una verifica sul luogo di nascita. Un paese, scrive il Corriere, dove storicamente non esiste una tradizione di denuncia delle nascite efficiente o quantomeno puntuale come in Occidente. E allora ecco che la strategia sarebbe questo. Berlusconi dice non ha mai fatto sesso con la ragazza, sosterrà questa difesa, che in ogni caso non si trattava di una prostituta, ma se veramente fosse dimostrabile che Rubi ha conosciuto Berlusconi quando era maggiorenne, non ci sarebbe nemmeno bisogno di dover dimostrare le prime due cose, il processo finirebbe in quel momento. Ecco, argomenta uno che nel PDL, sotto anonimato, cita questo al Corriere della Sera. Quindi questo sarebbe l'asso nella manica di Berlusconi. Rubi non era minorenne. Una Rubi che nel frattempo, Libero immortala a pagina 3, è arrivata a Vienna da un paio di giorni, dove parteciperà al ballo delle debuttanti, perché il 78enne Richard Lugner, vi ricordate, è un magnate, un costruttore, ogni anno si presenta a questo ballo delle debuttanti e deve un po' stupire tutti, viene invitato controvoglia, ma c'ha i soldi e ci va, e porta sempre delle accompagnatrici, come dire, in vista. Una di queste, in questo caso, quest'anno è Rubi. Qualche guaio ancora, racconta Libero, per Fini, che resta indagato per la vicenda della casa Monte Carlo. Anzi, Libero dà una notizia nuova, secondo la quale Giancarlo Tugliani, il cognato di Fini, avrebbe 6 società offshore. A pagina 5, Franco Bechis, 6 società costituite tutte nel paradiso fiscale di Santa Lucia. Tutto questo emerge dagli atti inviati, famosi atti inviati dal premier di Santa Lucia al ministro degli esteri italiano Frattini e trasmessi alla procura di Roma. Giancarlo Tugliani era, secondo Libero, titolare effettivo della Printemps, che acquistò la casa famigerata di Monte Carlo, ma anche era titolare della Yaman Directors Ltd, di altre società fino a 6, la Corporate Management di Santa Lucia, la Corporate Management Nominees Ltd, la Corporate Agent Santa Lucia Ltd, insomma tutto 6 società offshore, per cercare di far perdere le tracce sul reale acquirente di un immobile. Questo scrive Libero a pagina 5. Il Fatto Quotidiano titola così: la grande idiozia, questo in prima pagina, il tema del nostro sondaggio, la definisce così, la grande idiozia, Il Fatto Quotidiano. C'è anche un'intervista ad Alessio Butti, che sarà il senatore del PDL in Commissione Vigilanza Rai, che ha proposto le conduzioni a, qualcuno ha definito a targhe alterne, le conduzioni alternate dei conduttori dei talk show della Rai, soprattutto il martedì e il giovedì, Floris con Ballarò e Santoro con Anno Zero. Che ne pensate? Il tema del nostro sondaggio, c'è un'intervista a Santoro a pagina 2 del Fatto Quotidiano, definisce questa una proposta politicamente aberrante, in termini televisivi ridicola e inapplicabile. C'è anche il presidente della Rai, Garimberti, che ha detto: se passa questa proposta è consideriamo come un atto di sfiducia nei confronti della Rai. Mentre Bruno Vespa, che commenta periodicamente sul Quotidiano Nazionale, fa il commento in prima pagina del Quotidiano Nazionale, io ho l'edizione del Nord, Il Giorno, dicendo Alessio Butti, c'è anche un errore di ortografia, viene definito Alessio Brutti, no? Alessio Butti, capogruppo del PDL, non è un pazzo. Se è uscito con una proposta stravagante, irrealizzabile come quella delle trasmissioni a targhe alterne, è perché non sa dove battere la testa per equilibrare palinsesti televisivi che nelle trasmissioni di approfondimento sono fortemente sbilanciati a sinistra. Così scrive Bruno Vespa. I miei colleghi di Rai 3, a cominciare dal direttore Paolo Ruffini, sono eccellenti professionisti, ma è un fatto che su quella rete, per tre quarti dedicata all'informazione, dal risveglio alla buonanotte, non c'è un solo momento che non sia ispirato alla guerra santa contro Berlusconi. Dico contro Berlusconi e non solo contro il governo, perché la stessa impostazione regge dal 94 anche negli 8 anni in cui il Cavaliere è stato all'opposizione. Dunque Bruno Vespa dice non è una idea peregrina quella di Butti, è che forse è irrealizzabile, certo sì, ma è un modo anche assurdo per cercare di porre un problema evidente. L'occupazione della sinistra, soprattutto di Rai 3, dell'informazione di Rai 3. Questo scrive Bruno Vespa, ne parleremo alle 8.30. Intanto io voglio segnalare un'interessante intervista che certo farà discutere, perché quando si tocca questo tema è sempre fonte di discussione in Italia, il nucleare. Ebbene, Umberto Veronesi, che è a capo dell'Agenzia per il Nucleare, intervistato dalla Stampa, da Luca Ubaldeschi, a pagina 15, senza nucleare l'Italia è un paese morto. tra 50 anni finirà il petrolio, tra 80 e 100 il carbone, poi il gas, altre fonti non saranno sufficienti a fornire l'energia di cui abbiamo bisogno, il risultato non avremo la luce, non potremo far funzionare i computer, i frigoriferi, viaggiare i treni. Se lo immagina, parte da questa visione apocalittica veronese, che poi affronta tutti gli altri temi, spiegherò ai cittadini che si può fare in sicurezza, non è giusto avere paura, spiega gli unici errori nella storia sono stati errori umani, come a Three Mile Island oppure a Chernobyl. Parla del problema delle scorie, il discorso complesso, solo una piccola parte delle scorie richiede millenni per depotenziarsi completamente. E poi Veronesi chiede anche, sa che in un bicchiere d'acqua c'è l'uranio? Che c'entra però, professore, tra un bicchiere d'acqua e una centrale esiste una bella differenza. Certo, ma ho trascorso la mia vita a combattere le paure ingiustificate. Soltanto 40 anni fa, dice Veronesi, in Italia c'era ancora il timore a usare il forno a microonde, per non dire di quando cominciò a girare la storia che il pane congelato in freezer fosse cancerogeno. Assurdità, lo sappiamo, ma la paura è frutto di ignoranza, sono timori vaghi, confusi, sui quali giocano alcuni movimenti politici. Il risultato? Non si possono usare gli OGM, non si fa la TAV, si bloccano i termovalorizzatori. Insomma, un'interessante intervista a Umberto Veronesi. Senza nucleari l'Italia è un paese morto, ve la segnalo sulla Stampa. Poi voglio segnalare un tema che magari non trovate nelle prime pagine, trovate, alcuni lo richiamano in prima pagina, è un tema molto interessante, è un tema culturale, teologico, molto profondo. Esce un secondo volume scritto dal Papa su Cristo. Ebbene, Benedetto XVI fa delle riflessioni molto profonde, nelle quali corregge anche la data dell'ultima cena, riflette su Giuda, ma soprattutto pone una problematica e dirime una controversia che si porta avanti da 2000 anni. Ecco chi chiese la morte di Gesù. Sapete che per 2000 anni questa è stata la scusa anche per molti di leggere in questo modo, in maniera errata, le sacre scritture, per dire gli ebrei sono stati un popolo deicida e per questo sono stati perseguiti per millenni. Ebbene, oggi sui giornali la novità grande, profonda del Papa: non uccisero Gesù. Il Papa difende gli ebrei. Questo anche su Repubblica, anche su Avvenire. Il Papa assolve gli ebrei, sulla Stampa. Non uccisero Gesù. Nella seconda parte del suo Gesù di Nazareth, in uscita il 10 marzo, Ratzinger rilegge tutta la passione di Cristo e dirime anche questa controversia. Gian Guido Vecchi sul Corriere, a pagina 49, scrive così: crucifige, la domanda ha attraversato 2000 anni di cultura occidentale. Chi ha insistito per la condanna di Gesù a morte? Pensare che tutto dipendeva dal Vangelo secondo Matteo, il primo della tradizione, anche se il più antico è in realtà quello di Marco. Ed è Marco nell'originale a parlare di oklos, un termine che indica semplicemente una folla, una quantità di gente, quella che sceglie di liberare Barabba. Secondo questa interpretazione amplificata, qualcuno ha detto, ecco, questa folla sono il popolo ebraico, e da qui è nata tutta questa grande incomprensione, questo dramma, spesso anche nei millenni. Ora, il Papa in questa rilettura dice no, non è così. Non si può identificare questo con il popolo ebraico. Chi erano gli accusatori, secondo Giovanni, sono semplicemente i giudei, ma questa espressione in Giovanni non indica affatto il popolo di Israele come tale, ancor meno essa ha un carattere razzista, scrive il Papa. Insomma, i seguaci di Barabba, l'aristocrazia del Tempio, ecco chi volle condannare Gesù, ma non il popolo ebraico. Beh, un'interessante lettura, anche sul Manifesto c'è un'interessante intervista a Amos Luzzatto su questo. Amos Luzzatto che comunque dice nessuna novità, ma che lo dica un teologo fa sempre piacere. Ci dobbiamo fermare per il GR, ci sentiamo subito dopo.